Ilaria quando tornava ci raccontava di questo popolo martoriato, le donne, dei bambini, perché era un suo cruccio vedere tanta povertà e miseria in quel paese. Però non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente, intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso, e proprio poi per non metterci in ansia, noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione e ansia. 20 marzo 1994, la capitale della Somalia, Mogadiscio, è da mesi un luogo di guerra, un posto pericoloso, come dice Luciana Alpi, dove si contendono opposte fazioni in conflitto tra loro, bande armate, dei cosiddetti signori della guerra. Quella è una giornata come altre per l'inviata del TG3 Ilaria Alpi e per il cameraman Miran Krovatin. Una giornata normale in una terra che normale però non è. Per questo in Somalia l'ONU ha organizzato la missione militare umanitaria Restore Hope. Migliaia di soldati, mezzi, tecnologie. Ma la guerra non finisce. I gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra. Ilaria e Miran sono in Somalia da giorni, proprio come altri inviati giunti da ogni parte del mondo. Un comando li uccide che è mattina sulle loro jeep. Un'esecuzione, non un incidente. Chi li uccide, attenzione, preme il grilletto proprio contro loro. Sono le idee, le intuizioni di Ilaria Alpi. Lei stava indagando su un presunto traffico di armi e rifiuti tossici, soprattutto scorie nucleari tra l'Italia e la Somalia. Un traffico di interesse strategico per una nazione che ha bisogno di terreno per insabbiare rifiuti e l'altra, la Somalia, perennemente in guerra civile che vuole essere pagata soprattutto con armi. Giancarlo Marocchino, faccendiere italiano che opera a Mogadiscio, è il primo a giungere nel luogo del duplice omicidio. Marocchino viene sentito come testimone il 9 giugno del 99 nel processo che deve accertare esecutori e mandanti. Si trova davanti ai giudici e all'avvocato Guido Calvi. È quello che dice di aver visto il 20 marzo del 94. E lei si reca subito nel luogo dove le avevano detto che c'era stato l'attentato? Sì, perché diciamo che per fargli capire bene, lui mi ha fermato 500 metri prima del crocifio, poi... come già dopo crocifio avevo già visto la folla, questa folla che era intorno a questa macchina. Ecco, lei che cosa ha fatto appena avuto notizia bene, che era stato un attentato? Io per lì sono stato un po' perplesso, lui mi aveva così insistito, io ho girato la macchina, mi fermai a fianco alla macchina che era successo questa disgrazia, questo fatto. E appena si è reso conto di quello che è accaduto, lei che cosa fa? Beh, io quando sono arrivato sono sceso, sono andato davanti alla macchina, la macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile e capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era una quelle Toyota pick-up, doppia gabina, due portiere e poi il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro e rimasi così stupefatto, rimasi male, non mi avrei mai aspettato, e ho visto Ilaria. È un'inchiesta difficile, complicata, piena di buchi neri e di certezze, depistaggi, deviazioni delle indagini. 4 luglio 1994. Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Bosaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva annotato tutto su un taccuino poi scomparso. 17 gennaio 1995. A Roma si insedia la commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione riaffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale.

che voleva fare bene il proprio mestiere e per questo è stata uccisa. Diciamo di Ilaria, il lavoro che abbiamo cercato di fare con Ferdinando e anche con l'altro attore, Rado Cerbezia, è stato quello di comunque dare un aspetto molto importante di queste due persone, cioè che erano due persone normali, non erano degli eroi, no, perché io credo che questo film è un film riuscito perché non fa un, come dire, un santino di queste due persone, erano delle persone normali, cioè erano delle persone che avevano delle vite private, che avevano degli amici, che andavano a ristoranti, però poi dopo avevano una grande passione per il proprio lavoro, volevano farlo bene, con onestà, e volevano farlo a fondo. Quindi questo aspetto, che è strano perché, voglio dire, è un bel salto da una vita comunque di persone normali, Miran aveva una famiglia, un figlio, Ilaria non aveva una famiglia, ma insomma aveva la sua vita, i suoi amici, insomma, andare poi a trovarsi in quelle situazioni e soprattutto con quell'approccio così, con quella grandissima determinazione, cioè è un bello scatto. Però questa cosa abbiamo cercato di fare, di non riprodurre i cliché dell'inviato di guerra, magari più come potrebbero, non so, farlo più gli americani, no? Quindi comunque un eroe, quindi comunque uno che va contro tutti alla ricerca della verità. È quello che hanno fatto loro, sono andati alla ricerca della verità, ma in maniera normale, cioè stanno svolgendo il loro lavoro, ecco, quindi questo è un aspetto che sinceramente trovo molto affascinante, questo strano salto, no?